3 maggio 1940. Bisogna assolutamente che scriva. Non è giusto che questa nostra sofferenza rimanga sconosciuta e nascosta. Non è giusto che la nostra protesta non venga ascoltata. Finché la teniamo chiusa in noi stessi, serve come nostro sfogo o come nostra formazione. Ma è ormai ora che questo dolore venga da noi offerto a coloro a cui spetta. Non importa se non saranno belli i miei scritti. Io non voglio fare letteratura. Voglio, devo dire la verità.